Quando uno decidesse di cominciare a leggere la Bibbia, non è una cosa semplice. Di solito comincia dall'inizio e a mio parere comincia dalla parte più difficile. Quando qualcuno mi chiede un parere, io gli dico: dovresti cominciare a leggere le parti più storiche, dove si narra la storia del popolo ebreo. Potrebbe essere l'uscita dall'Egitto, ma meglio ancora sarebbe il periodo d'oro, periodo di Davide, che è stato il re più grande di Israele. E io normalmente suggerisco appunto di cominciare da dove abbiamo cominciato oggi, dal primo libro di Samuele. Tanto più dunque oggi vorrei parlarvi di questo, anche se non siamo in molti, perché la storia che comincia con Samuele e poi fiorisce nel massimo splendore nel re Davide ci accompagnerà per i prossimi 20 giorni. E io giorno per giorno, se mi seguirete, vi dirò il personaggio principale di cui si parla. Oggi è Samuele. Samuele però che non è ancora comparso al mondo. Samuele che sarà figlio di Anna, questa donna che alla presenza del Signore piange, si lamenta, piange lacrime amare perché non ha figli. Io vi invito, se vorrete, anche a casa vostra, a prendere in mano il primo libro di Samuele e andare avanti a leggere. È molto semplice, narra fatti storici della storia di Israele e quindi potrete senza fatica andare avanti e vi troverete davanti dei fatti veramente prodigiosi. Tra l'altro, questo Samuele, che ancora deve essere concepito da Anna, è uno di quei figli che nascono da donne che non potevano avere figli. Uno è Samuele, l'altro è Sansone. Poi, se vogliamo guardare, l'altro è Gesù, perché questa donna, anche lei, Maria, partorisce in una maniera, non poteva avere figli in maniera ordinaria così. E questi figli che nascono sull'impotenza umana stanno a indicare che la vera potenza è quella di Dio. E allora fin da oggi vi dico: coraggio, mettiamoci in ascolto di questa storia della salvezza che Dio sviluppa presentandoci le vicende storiche del suo popolo Israele, e vedremo sì quello che questi personaggi faranno, certamente, ma soprattutto quello che Dio farà servendoci di questi personaggi. E magari questo ci aiuterà a prendere anche più fiducia in noi stessi, perché certe volte ci sentiamo anche noi sterili, ci sentiamo anche noi incapaci, come queste donne incapaci di partorire. E allora dobbiamo aspettarci tutto dalla grazia di Dio, perché se noi fossimo bravi, noi ci vanteremmo, correremmo il rischio di dire: hai visto come sono stato bravo. Ma se noi ci sentiamo impotenti, se noi ci sentiamo incapaci, se noi ci sentiamo sterili, possiamo solo alzare lo sguardo, magari piangente, verso il Signore e dire: Signore degli eserciti, se vorrai considerare la miseria della tua schiava, se non dimenticherai la tua schiava e mi darai un figlio maschio, io lo consacrerò al Signore per tutti i giorni della sua vita.